Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di Milano. Parliamo di Milano non solo perché siamo a Milano, ma anche perché Milano è importante e non dobbiamo chiedere scusa agli ascoltatori delle altre città e del resto d'Italia. Milano è importante perché Milano non è solo la locomotiva d'Italia di nome, ma anche di fatto, e vedremo perché. Lo vedremo con Francis Morandi. Buonasera Morandi. Buonasera. Che ha scritto insieme a suo figlio Carlo Edward Morandi un libro, Gran Milano, come realizzare una grande metropoli europea e generare sviluppo. Ora è passato il tempo delle elezioni, abbiamo un nuovo sindaco, parliamo di Milano come città metropolitana. Innanzitutto Morandi, come è nato questo libro? Questo libro è nato un po' da un give back a Milano, dove ho studiato, dove ho lavorato, e così mi sono sentito anche in collaborazione con Carlo di dare un piccolo contributo, una sorta di manuale delle cose da fare per far diventare Milano una metropoli europea, anche perché ritengo che questa sia un'occasione quasi unica di sviluppo non solo per Milano, ma direi un po' per tutta l'Italia. Milano è molto importante, insomma, saranno 134 comuni che si mettono assieme, 349.300 imprese, 11 università, di cui 47 facoltà, 1.800.000 auto e via dicendo. Partiamo bene, stiamo un po' decrescendo perché la popolazione sta decrescendo, la disoccupazione è aumentata, però dimentichiamo tutto questo e pensiamo al futuro, e in positivo dobbiamo capire cosa fare. Qui c'è una città metropolitana che è già una realtà amministrativa, anche se è ancora da definire nei suoi contorni effettivi, tra i rapporti tra i comuni, anche, è ancora una cosa in evoluzione. Tra i sindaci, infatti, a livello amministrativo, a livello politico, è ancora un germoglio come città metropolitana, però come realtà economica e sociale è qualcosa di unitario. In fondo si è dimostrato l'anno scorso con l'Expo come la partecipazione sia stata una partecipazione molto, molto attenta, molto viva, molto in fondo sentita da parte degli stessi milanesi. In questo senso i milanesi sono da promuovere? Assolutamente sì, dobbiamo ragionare in positivo, dobbiamo pensare, come abbiamo analizzato nel libro, il libro nasce da interviste fatte a parecchie persone, ma soprattutto dall'analisi di benchmark e di best practice internazionale, 23 metropoli che adesso così vanno da Hong Kong a Boston piuttosto che Berlino, Parigi e via dicendo. Anche perché la potenzialità è notevole, perché l'incremento del PIL dei 188 miliardi di PIL degli attuali 134 comuni che costituiscono Milano metropolitana nel giro di 3 anni può aumentare dell'8,2%. L'MIT ha fatto un analogo studio, forse più documentato e tutto, e parla addirittura di percentuali superiori. Quindi il fenomeno è grande, così come le sinergie, mettendo assieme i 134 comuni, possono essere del 31%, notevoli. Pensate, un'anagrafe unica, tutta una serie di nuovi city systems, via dicendo, per eliminare tantissimi uffici, e 24.000 posti di lavoro in più almeno in 3 anni. Ecco, vista dall'alto, quando si parte in aereo da Milano appare appunto come una grande città metropolitana, una grande unità, una grande appunto una città infinita, chiamata Aldo Bonomi a suo tempo. In un certo senso però, vista dal basso, Milano è ancora una realtà un po' frammentata, i comuni forse ci tengono anche alla loro identità. Come superare questa dimensione e diventare veramente una città nazionale, in fondo? Ecco, direi, vista dall'estero anche non è così grande, siamo al 29esimo posto, anzi saremo al 29esimo posto quando realizzeremo Milano metropolitana. Come superare? Evidentemente ci dobbiamo impegnare un po' tutti, dobbiamo avere diciamo una classe politica, ma soprattutto una classe manageriale, una classe dirigente, ma direi il contributo di tutto, compreso soprattutto i giovani, perché Milano è per loro, che sia in grado di sviluppare una città con il concetto della città cosiddetta intelligente o smart city, quindi con nuovi city systems, con Internet of Things, con nuova tecnologia, nuova ricerca, ma anche con nuovi concetti anche di democracy, i referendum un po' alla Svizzera, magari fatti con il computer. Tante liberalizzazioni. Milano oggi è assolutamente impastoiata da tasse incredibili. Abbiamo un residuo fiscale nell'area dei 139 comuni che è di 39 miliardi, non so, Barcellona ce l'ha di 7 piuttosto che la Baviera di 5, quindi noi siamo abbiamo tantissime degli spazi anche da superare. Ecco, ma in questa prospettiva un ruolo importante nel libro, lei sottolinea, è quello dei politecnici. Ecco, da un bocconiano, cui lei appunto nasce come bocconiano, come esperto di economia, come consulente di impresa, consulente finanziario, perché i politecnici possono avere questo ruolo importante? Ecco, politecnico è un neologismo che avevo coniato proprio in un precedente libro per il Sole 24 Ore, significa un politico che sappia, di cui abbiamo parlato anche in questa rubrica, mi sembra. Esatto, sì. Ti ringrazio. Il politecnico sono dei politici che hanno un curriculum documentato, attestato. Nell'ambito della parola politecnico c'è anche il concetto di etico, quindi abbiamo bisogno di politici che sappiano bene cosa fare. Noi cittadini dobbiamo dare una mano a loro per richiedere, avere un controllo sociale buono su questi aspetti. Da questo punto di vista direi che la Smart City, queste nuove unità che è la città metropolitana, ha anche il vantaggio a Milano, a differenza di quanto dicono molti, che i soldi a Milano esistono. Nel libro sono individuate 23 forme tecniche di finanziamento che vanno dai finanziamenti europei, ma soprattutto vanno dal project financing, dai buoni speciali comunali, buoni ordinari comunali e via dicendo. E tutti, comprese le nostre aziende, le nostre banche, tutte, dobbiamo cercare di finalizzare molti dei nostri interventi ai fini di far crescere Milano come città europea. Direi anche che per quanto riguarda l'accounting stesso, piuttosto che quelli che io chiamo i City Performance Indicator, cioè dobbiamo abituare i politici e la gente a pretendere degli indicatori, non so come va l'occupazione, come va la produttività negli uffici pubblici e via dicendo, cose che in altre grandi metropoli sono state sviluppate già da alcuni anni, da noi mancano, e per cui è molto facile un po' anche per i politici di un po' di seconda categoria continuare a vivere di annunci e potere poco dimostrare quello che si è fatto. La trasparenza serve a loro per primi, perché nessuno gestisce un'unità complessa amministrativa come un comune senza avere questi indicatori e avere dei principi di accounting molto trasparenti, ma soprattutto semplici e capibili, intelligibili dalla gente. Quindi una gestione operativa appunto trasparente ed efficace, una economia e una finanza che sappiano essere dei motori appunto per lo sviluppo, ma c'è anche il turismo. Ecco, mi ha quasi sorpreso un capitolo di questo libro in cui si parla di almeno una quarantina o 50 musei che possono essere ospitati o valorizzati, dalla moda al design, all'elettronica, alle armi, alla fotografia, ovviamente al museo del teatro e così via. Quindi 82 punti... teatri. Ecco, 82. Quindi c'è anche un'attività culturale, un'attività appunto sociale, un'attività anche di ripresa della storia, che può essere sia un modo per far vivere meglio i milanesi, sia un modo di attrattiva per il turismo. Il turismo può essere un elemento chiave anche per un rilancio della città di Milano? Ecco, Milano nel 2015 è stata la capitale italiana del turismo, ma da sempre al secondo posto, molto vicino a Roma. Direi che il turismo è uno dei presupposti da sfruttare meglio, anche col digital marketing, con tutti questi strumenti. Quando parlo di liberalizzazione, ovviamente dobbiamo assolutamente sviluppare anche tutto ciò che la tecnologia e internet ci permettono, e quindi anche diciamo gli affitti turistici e via dicendo sono tutte cose che molto probabilmente a alcune categorie danno un po' fastidio, in realtà permettono di portare molti più turisti. Pensiamo ai 150 milioni di turisti cinesi che sono previsti venire in Italia nei prossimi 10 anni, e queste cose o ci attrezziamo da subito per gestirli, o altrimenti li perdiamo e andranno altrove. Ecco, quindi anche in questa prospettiva, diciamo, Milano può essere una città multisettoriale, cioè capitale dell'informazione, capitale delle comunicazioni, capitale della finanza, può essere anche una nuova capitale del turismo. E della tecnologia, un polo della tecnologia. Forse un problema anche qui di razionalizzazione dei trasporti, di razionalizzazione degli aeroporti, tante scelte da fare che possono essere operate. Forse il nuovo sindaco, 4 anni non bastano per fare tante cose. L'integrazione è prevista in 23 mesi, c'è anche tutto un'organizzazione per integrare i comuni. La gente deve usare sistemi di home municipality, non bisogna più andare negli uffici comunali, dobbiamo pretendere di avere tutto a casa. perché così ormai la tecnologia permette, il libero suddiviso in 14 aree amministrative. La mobilità è una delle principali, la mobilità che, facendo riferimento anche a Boston, molto probabilmente si deve sviluppare anche sotterranea. Milano c'è dell'acqua, però l'acqua è un elemento amico e si possono benissimo fare delle soluzioni, come sono state viste appunto non solo a Boston ma anche a Hong Kong, e che tra l'altro costano molto poco e permetterebbero di tirar via le macchine dalle strade, e sarebbe un grosso vantaggio. Beh, questo sarebbe un grosso vantaggio. Il quello del traffico è un problema su cui si è discusso molto, vedremo quali saranno le scelte operative. Peraltro Milano parte già in buona posizione, almeno linee metropolitane, il maggior numero di linee d'Italia. Abbiamo Roma, più chilometri di tutte le altre città italiane. Di tutte, sì, le altre città italiane, quindi sotto questo senza profilo. Senza voler fare campinalista. No, la Roma c'è qualche problema in più, facendo i buchi per terra, ovviamente, sia dal punto amministrativo sia dal punto di vista archeologico. Dobbiamo farne a minore costi. Quindi, diciamo, per concludere, Francis Morano, per questo libro Gran Milano, grande ottimismo sulle prospettive della città in fondo per i prossimi anni. Più che ottimismo, direi dobbiamo mettere grande impegno. Se mettiamo l'impegno non possiamo che essere ottimisti. Abbiamo libro... una storia dalla nostra parte, abbiamo anche un futuro, dei giovani, delle ottime università, insomma, ecco. Ho fatto un po' un confronto con Boston, dove ho studiato. Cavoli, università come la Bocconi Politecnico ci permettono di essere ottimisti, però i giovani devono anche spingere per tendere di più. E questo è un fondo, questo libro, un manuale anche per capire come funziona una grande città, come potersi muovere nella grande città, un aiuto ai nuovi amministratori per cercare di affrontare i problemi con la dovuta calma, ma anche con la dovuta necessità di rispondere appunto alle esigenze dei cittadini. Grazie Francis Morandi, quindi guardiamo in avanti e rimbocchiamoci le mani. Con realismo. Grazie a voi. Grazie. A Francis Morandi di essere stato con noi questa sera. Ricordo il libro che ha scritto insieme al figlio Carlo Edward Morandi, si intitola Gran Milano, come realizzare una grande metropoli europea e generare sviluppo. Edito da Egea, sono 312 pagine per 29 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, grazie a Luca Cremonese in redazione, a Peter Bescapè in regia. L'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.